Pronto? Visto che stasera rompe coglione tua madre, eh? Queste baracchine, vabbè, vuoi che faccio seguire la questura? Pronto? Che ti senti male stamattina? Ma posto che non sei altro, brutto coglione. Oh, ti soffio dell'anima. Che basta, baracchino? Pronto? Coglione, ve la becchi, Pronto che non sei altro. Ma perché non vai da quella bagasse mamma tua? Da quella troia di tua madre? Lascialo. Mamma mia! Senti, tieni il pollo, rispondi! Fai il pollo, ogni volta che rispondi! Pronto! Ecco, crepi tu e tua madre, dormi! Se non ti faccio dormire, capito? Che non ti faccio dormire! Brutto coglione! Crepa tu e tua madre, sei due, capito? Devi crepare tu e quella grande bagasse mamma tua! Però ti coglioni! Però ti coglioni! Soffiati coglioni, capito? Perché stanotte tu non dormi! Non ti basta, stanotte ti mando la questura a casa tua. Ho detto lo dai a quella bagasse mamma tua, hai capito? È finito? Coglione! Coglione! Coglione! Coglione! Che carino che sei! Che cosa vuoi? Fatelo dare a tua madre, che lo tiene bello grosso, Va, porco! Non sa fare altro? Va, fanculo a te e tutta la faccia. Stanotte tu non dormi, hai capito? Non dormi, cambiati numero. Thank you. Vai là. Ma vaffanculo, ma perché non tieni il telefono? Non lo paga tua madre? Assunto che non sei altro, puttana, lo dice a tua madre. Hai capito, coglione? Oh, brutto porco che non sei altro. Baracchino, vero? Stanotte ti rompe coglione a casa tua, hai capito? Basta baracchino, vero? È duro. Te l'ho detto, dai, a quella bagasse mamma tua! Però fai fare da quella bagasse mamma tua! Pronto. ma che poi stanotte ce ne dorme tu e tua madre.